Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Bene, ecco qua, disse Silvar. Noi quel tesoro lo vogliamo e l'avremo. Questo è il nostro punto di vista. Voi volete salvare la vostra vita, suppongo, e questo è il vostro. Voi avete una carta, no? Potrebbe anche essere, rispose il capitano. Ma sì che l'avete, questo lo so, replicò Long John. Non è il caso di essere così duro con un uomo, non serve proprio a un bel nulla, potete contarci. Quel che intendo dire è che la vostra carta occorre a noi. Personalmente non ho mai inteso farvi del male. Non attacca con me, amicone. Sappiamo bene a cosa mirate e non ce ne importa un fico, perché ormai, vedete, non vi è più possibile. E il capitano lo guardò con calma e cominciò a caricare la pipa. Se Abe Gray, insinuò Silver. E ora basta! Gridò il capitano Smollett. Gray a me non ha detto un bel nulla e io non gli ho chiesto niente. E per quanto mi riguarda personalmente, vorrei vedere voi, lui e tutta quanta quest'isola saltare in aria e sprofondare nel mare. Ecco qual è il mio sentimento per voi in questa faccenda, ragazzo mio. Questa leggera sfuriata sembrò calmasse gli ardori di Silver. Era andato dapprima irritandosi, ma ora si ricompose. E adesso, concluse Silver, si tratta di questo. Voi ci date la carta per poter trovare il tesoro e la smettete di sparare su dei poveri marinai e spaccar loro la testa mentre dormono. Fate così e noi vi offriamo la scelta. O venite a bordo con noi, una volta caricato il tesoro, e io mi impegno sulla mia parola d'onore di sbarcarvi sani e salvi in qualche luogo, o... Se questo non vi garba, dato che alcuni dei miei sono violenti e hanno dei vecchi rancori causa le punizioni, potete restar qui, potete. Divideremo con voi i viveri un tanto a testa e mi impegnerò, sulla parola, come ho detto, ad avvertire la prima nave che incontro e mandarla a riprendervi qui. Ammetterete che questo è un bel parlare. Più condiscendente di così... Non potreste desiderarmi. E io spero, e alzava la voce, che tutti i marinai che si trovano in questo fortino pondereranno le mie parole, perché quel che è detto per uno è detto per tutti. Il capitano Smollett si alzò e scosse la cenere della sua pipa battendola contro il palmo della mano sinistra. Tutto qui? Chiese. «Ed è l'ultima parola per la galera!» rispose John. «Rifiutatela e da me non avrete nient'altro che pallottole di moschetto!» «Benissimo!» disse il capitano. «E ora state a sentire anche me! Se venite avanti, uno alla volta, disarmati, prendo impegno di mettervi i ferri dal primo all'ultimo e ricondurvi in patria per un processo regolare in Inghilterra. Se rifiutate, io mi chiamo Alexander Smollett, ho issato la bandiera del mio sovrano e vi vedrò tutti in fondo alla gran tazza. Il tesoro non lo potete trovare, il bastimento non lo potete dirigere, non c'è uno tra voi che ne sia capace e non potete nemmeno batterci. Gray, qui presente, si è liberato di 5 di voi. La vostra barca fa acqua, capitano Silver. Siete sotto vento e ve ne accorgete. Io resto qui e ve lo dichiaro. E sono queste le ultime parole buone che avrete da me, perché la prossima volta che vi incontro faccio voto al cielo di ficcarvi una pallottola nella schiena. Filate, giovanotto, favorite levarvi di tra i piedi di grazia. Un passo dietro l'altro, a velocità accelerata! La faccia di Silver era da dipingere. Gli occhi dalla rabbia gli schizzavano fuori dal capo. «Datemi una mano a rialzarmi!» gridò. «Io no!» replicò il capitano. «Chi vuol darmi una mano per rialzarmi?» ruggì. Non uno di noi si mosse. Borbottando le più laide imprecazioni, si strascicò sulla sabbia finché non poté appoggiarsi alla parete del portico e issarsi di nuovo sulla sua stampella. Allora sputò dentro la polla. «Ecco!» strillò. «Cosa penso di voi? Entro un'ora vi farò bollire nel vostro decrepito fortino come un ponce al rum! Ridete pure per la galera! Tra un'ora riderete all'inferno e quelli che moriranno saranno i più fortunati!» E con un'orrenda bestemmia zoppicò via, affondando nella sabbia. Riuscì a scalare la palizzata dopo 4 o 5 tentativi falliti e con l'aiuto del compagno dalla bandiera bianca scomparve in un lampo tra gli alberi. Non appena scomparso Silver, il capitano, che l'aveva attentamente sorvegliato, si volse verso l'interno e non trovò nessuno di noi al suo posto, a eccezione di Gray. Fu la prima volta che lo vedemmo incollerito. «Ai posti!» ruggì. E poi, dopo che tutti ebbero raggiunto il proprio posto, «Gray», disse, «ti citerò sul giornale di bordo. Ti sei comportato da vero marinaio. Cavaliere, mi stupisco di voi. Dottore, credevo che aveste indossato l'uniforme di Sua Maestà. Se vi siete comportato in questo modo a Fontenoy, avreste fatto meglio a restare nella vostra cuccetta». La squadra del dottore era tornata al completo alle sue feritoie. Gli altri si erano riuniti a caricare i moschetti di riserva, tutti col viso rosso, garantito, e con la pulce all'orecchio, come si dice. Il capitano ci guardò per un poco in silenzio, poi parlò. «Ragazzi», disse, «ho sparato a salve contro Silver. Gli ho bruciacchiato la pelle di proposito e entro un'ora, come ha detto, saremo assaliti. Siamo inferiori per numero, non c'è bisogno che ve lo dica, ma combattiamo al riparo. E un minuto fa avrei detto che combattiamo con disciplina. Non ho il minimo dubbio che possiamo batterli, se lo volete». Dopodiché passò la sua ispezione e constatò, e ce lo disse, che tutto era in ordine. Sui due fianchi più corti del fortino, a levante e ponente, non c'erano che due feritoie. Sul lato di mezzogiorno, dove si trovava il portico, ancora due. E sul lato di tramontana, cinque. Vi era una buona dozzina di moschetti per noi sette. La legna da ardere era stata mucchiata in quattro cataste, quasi come tavoli, e circa a metà di ogni lato e su ciascuno di questi tavoli erano state posate delle munizioni e quattro moschetti carichi a portata di mano dei difensori. Nel mezzo erano allineati i coltellacci. «Spegnete il fuoco», disse il capitano. «Il freddo è cessato e non dobbiamo avere il fumo negli occhi». Il cesto di ferro a uso di focolare fu portato fuori dal signor Triloni e le braci affogate nella sabbia. «Hawkins non ha fatto colazione. Hawkins, serviti da te e torna al tuo posto a mangiare», continuò il capitano Smollett. «In gamba, ragazzo mio, ne avrai bisogno prima di aver finito. Hunter, distribuisci a tutti un bicchiere di grappa». e durante la distribuzione il capitano aveva completato il piano di difesa. «Dottore», riassunse, «voi occuperete la porta. State in vedetta, ma senza esporvi. Tenetevi dentro e fate fuoco attraverso il portico. Hunter, occupa il lato a levante. Là. Joyce, tu portati a ponente, marinaio. Signor Triloni, voi siete il miglior tiratore. Voi e Gray tenete questo lungo tratto a tramontana con le 5 feritoie. È il nostro punto debole. Se potessero raggiungerlo e far fuoco su noi attraverso le nostre stesse feritoie, le cose comincerebbero a mettersi male. Hawkins, né tu né io valiamo gran cosa al bersaglio. Ci terremo vicini per ricaricare e dare una mano». Come il capitano aveva detto, il freddo era cessato. Non appena il sole era salito al di sopra della nostra cerchia di alberi, era piombato con tutta la sua forza sulla radura e aveva dissolto i vapori. Presto la sabbia scottò e la resina cominciò a fondersi nei tronchi d'albero del fortino. Camiciotti e vestiti volarono in mucchio. Le camicie furono rivoltate al colletto e le maniche rimboccate fino alle spalle e rimanemmo lì, ognuno al suo posto, disfatti dal calore e dall'ansietà. Trascorse un'ora. «Possano morire impiccati!» sbottò il capitano. «Pesa quanto la bonaccia all'equatore! Gray, fischia per chiamare il vento!» Ma proprio in quel mentre venne il primo segno dell'attacco. «Scusate, signore», chiese Joyce, «se vedo qualcuno, devo sparare?» «Vi ho ben detto di sì!» gridò il capitano. «Grazie, signore», disse Joyce, con la solita pacata cortesia. Nulla seguì per qualche tempo, ma l'osservazione ci aveva messi tutti quanti sull'avviso e tenevamo tesi occhi e orecchie. I tiratori erano pronti a far fuoco, il capitano nel bel mezzo del fortino con le labbra serrate e il viso aggrottato. Così trascorse qualche secondo. Poi a un tratto Joyce puntò il suo moschetto e sparò. Il rimbombo non si era ancora spento che altri colpi risposero dall'esterno, scariche a ripetizione, un colpo dietro l'altro, come se sparassero a una fila di anatre da ogni lato del recinto. Alcune pallottole colpirono il fortino, ma nessuna penetrò nell'interno. E non appena il fumo si disperse e svanì, la palizzata e i boschi circostanti apparvero tranquilli e deserti, come prima. Non un ramoscello oscillante, non un luccichio di canna di fucile che tradisse la presenza dei nostri nemici. «Avete colpito il vostro uomo?» interrogò il capitano. «No, signore», disse Joyce. «Credo di no, signore». «La più bella cosa è dire la verità», borbottò il capitano Smollett. «Carica il tuo fucile, Hawkins. Quanti ce n'erano, secondo voi, dalla vostra parte, dottore?» Non potrei dirlo esattamente, rispose il dottore. Sono stati sparati 3 colpi da questa parte. Ho visto le 3 vampate, 2 vicinissime una all'altra, la terza più lontana, verso ponente. 3, ripeté il capitano. E quanti dalla vostra parte, signor Triloni? Ma la risposta non fu così facile. Ne erano venuti molti dal nord, 7 stando al computo del cavaliere, 8 o 9 stando a quello di Grey. Da levante e ponente solo un colpo era stato sparato. Era quindi evidente che l'attacco si sarebbe pronunziato da nord e che sugli altri 3 fronti saremmo stati molestati soltanto da una finta ostilità. Ma il capitano Smollett non introdusse alcun mutamento nelle sue disposizioni. Se i rivoltosi fossero riusciti a scavalcare la palizzata, ragionava, avrebbero preso possesso di ogni feritoia non presidiata e ci avrebbero ammazzati come tanti topi dentro la nostra stessa fortezza. E d'altronde non ci rimase granché tempo da pensare. A un tratto, con un urra potente, un piccolo drappello di pirati si precipitò fuori dal bosco sul lato nord e corse dritto verso lo steccato. Nello stesso istante il fuoco fu di nuovo aperto dal bosco e una palla fischiò attraverso l'entrata e mandò in pezzi il moschetto del dottore. Gli assalitori balzarono in cima allo steccato come scimmie. Il cavaliere e Grey fecero ripetutamente fuoco. 3 uomini caddero, 1 all'avanti, entro il recinto, e 2 indietro, al di fuori. Ma di questi, 1 era evidentemente più atterrito che ferito, perché con un balzo si rimise in piedi e scomparve istantaneamente fra gli alberi. 2 erano morti, 1 era scappato, 4 avevano messo piede entro le nostre difese. Al riparo dei boschi, 7 o 8, ciascuno evidentemente provvisto di parecchi moschetti, continuavano un accanito quanto inutile fuoco contro il fortino. I 4 che erano entrati si diressero immantinente verso il fabbricato, urlando mentre correvano, e quelli rimasti fra gli alberi li accompagnavano con grida per incoraggiarli. Furono sparati parecchi colpi, ma era tanta la furia dei tiratori che parve che nessuno giungesse a segno. In un istante i 4 pirati ebbero scalato il monticello e ci furono addosso. La testa di Job Anderson, il nostro uomo, apparve alla feritoia di centro. «Tutti! Addosso! Addosso tutti!» ruggiva con voce di tuono. Nello stesso momento un altro pirata afferrò per la canna il moschetto di Hunter, glielo strappò dalle mani, lo storse attraverso la feritoia e con un colpo portentoso buttò il povero ragazzo svenuto per terra. E intanto un terzo, girando incolume intorno alla casa, apparve a un tratto sull'entrata e piombò col suo coltellaccio sul dottore. La nostra posizione si era completamente rovesciata. Un momento prima facevamo fuoco al coperto, contro un nemico esposto. Ora eravamo noi a trovarci esposti, senza poter restituire un colpo. Il fortino era pieno di fumo, al che dovemmo la nostra relativa salvezza. Grida e confusione, vampate e detonazioni di pistola e un alto lamento rintronarono alle mie orecchie. «Fuori, ragazzi! Fuori! Uscite allo scoperto! Prendete i coltellacci!» gridava il capitano. Strappai in furia un coltello dal tavolo e qualcun altro, strappandone un altro contemporaneamente, mi fece un taglio sulle nocche che avvertii appena. Mi precipitai fuori della porta nel sole abbagliante. Qualcuno mi stava alle calcagna, non so chi. Proprio di fronte a me il dottore stava inseguendo il suo salitore giù per il declivio e proprio quando i miei occhi caddero su di lui vinse la difesa del pirata e lo mandò riverso per terra con un largo taglio attraverso il viso. «Intorno alla casa, ragazzi! Intorno alla casa!» gridava il capitano e anche nel tafferuglio mi accorsi di un mutamento nella sua voce. Ubbidì meccanicamente, mi volsi al levante e col coltellaccio alzato corsi intorno all'angolo della casa. Un momento dopo ero faccia a faccia con Anderson. Emise un feroce ringhio e levò alta sul capo la sua lama che splendette nel sole. Non ebbi tempo di spaventarmi, ma mentre il colpo mi pendeva sul capo balzai da un lato e perdendo l'equilibrio nella sabbia cedevole rotolai di testa giù per il pendio. Quando dapprima mi ero lanciato fuori della porta, gli altri rivoltosi stavano già scavalcando la palizzata per farla finita con noi. Uno, con una papalina rossa e il coltellaccio fra i denti, era già giunto alla sommità e con una gamba l'aveva già scavalcata. Ebbene, l'intervallo fu così breve che quando mi rimisi in piedi, l'individuo dalla papalina rossa era ancora a mezza strada. E un altro cominciava appena a mostrare la sua testa in cima alla palizzata. Eppure, in questo breve istante, il combattimento era terminato e la vittoria era nostra. Gray, che mi era dappresso, aveva abbattuto con una coltellata il grosso nostromo, senza dargli il tempo di riprendersi dopo il colpo mancato. Un altro era stato ucciso a una feritoia mentre stava facendo fuoco dentro la casa e ora giaceva in agonia con la pistola ancora fumante in mano. Un terzo, come avevo visto, era stato messo fuori combattimento da un colpo del dottore. Dei quattro che avevano scalato la palizzata, soltanto uno rimaneva incolume e questi, avendo perduto il suo coltellaccio sul campo, stava arrampicandosi un'altra volta per uscire con il terrore della morte alle spalle. «Fuoco! Fuoco dal fortino!» gridò il dottore. «E voi altri ragazzi, tornate al coperto!» Ma queste parole rimasero inascoltate. Non fu sparato alcun colpo e l'ultimo assalitore portò a compimento la sua fuga e si eclissò nel bosco con gli altri. In 3 secondi degli assalitori non rimanevano che i 5 che erano caduti, 4 all'interno e 1 all'esterno della palizzata. Il dottore, Gray e io corremmo a tutta velocità al riparo. I sopravvissuti sarebbero presto tornati dove avevano lasciato i loro moschetti e a ogni istante il fuoco poteva ricominciare. L'interno si era intanto un po' liberato dal fumo e in un batter d'occhio misurammo il prezzo della nostra vittoria. Hunter giaceva svenuto sotto la sua feritoia. Joyce presso di lui ferito alla testa, immobile per sempre, mentre al centro il cavaliere sorreggeva il capitano, l'uno non meno pallido dell'altro. «Il capitano è ferito!» disse il signor Trelawney. «Sono fuggiti?» chiese il signor Smollett. «Quanti hanno potuto? Statene pur certo», rispose il dottore. «Ma ce ne sono 5 che non correranno mai più». 5! Gridò il capitano. «Su via! Abbiamo migliorato la situazione! 5 contro 3! Restiamo in 4 contro 9! Meno disparità che in partenza! Eravamo 7 contro 19! Allora, o almeno così credevamo! Il che si equivale!» I rivoltosi furono presto 8 di numero, perché il marinaio colpito dal signor Trelawney a bordo della goletta era morto quella sera stessa in seguito alla ferita, ma ciò, naturalmente, non si seppe che in seguito.